Sconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Non nulla toglie questa sconfitta a quello che è stato nella stagione della Roma, che arriva seconda. La Juventus è campione d'Italia per la stagione 2013-2014, il Catania invece vince 4-1 e si ridà delle clamorose speranze di salvezza a due giornate dalla fine. 800-24-0024, telefoni apertissimi. Juventus campione d'Italia per la terza volta consecutiva, non dovrà attendere domani sera ore 21 la squadra di Antonio Conte, quella contro l'Atalanta sarà soltanto una passerella allo Juventus Stadium. Oggi la Roma si è arresa, è caduta 4-1 a Catania, l'avete sentito, la classifica dice che la Juventus ha oggi 8 punti di vantaggio sulla Roma, vantaggio incolmabile. E dunque Juventus che può festeggiare, sta già festeggiando. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo di ritorno da Roma al telefono per il momento. Ciao Pier. Sto arrivando, tra pochi minuti sono lì, ma intanto cominciamo così. Mi sembra che la Roma abbia quasi interpretato come una resa le parole di ieri di Garcia. Sì, direi di sì, mi sembra che la Roma abbia lottato fino al lunedì scorso, fino al match contro il Sassuolo, sembrava che potesse mollare prima e non l'aveva fatto, è successo oggi, è successo in maniera abbastanza clamorosa contro una squadra che chiaramente era ultima in classifica ma aveva ed ha ancora uno stramaledetto bisogno di punti e che adesso insomma andrà a Bologna a giocarsi molte possibilità. Sì, anche perché nelle pieghe di questo pomeriggio c'è una lotta per non retrocedere che si è clamorosamente riaperta, classifica 180 minuti dalla fine, Chievo 30 punti, Bologna 29, Sassuolo 28, devi giocare domani con la Fiorentina, martedì scusate, e poi Catania 26 e Livorno 25, sono tutti in corsa, scudetto Juventus oltre ogni dubbio, quindi lo chiariamo subito, ma poi avremo tempo fino alle 19 per parlarne anche con gli amici da casa, ripeto 800 24 00 24. Scudetto che arriva in cima a una domenica bestiale, una domenica che ha seguito un sabato che insomma avete seguito tutti, l'ennesima resa del calcio italiano, ammesso che di ennesima resa si possa parlare, perché mi sembra, carissimo Pier, che il nostro calcio sia abituato a toccare punti più bassi senza mai fermarsi nella sua discesa. Sì, ma il corso l'abbiamo fatto mille volte, questa è la 1001, è chiaro che finché non si decide di risolvere i problemi, queste situazioni purtroppo si riproporranno. E ti dico la verità, poi alla fine ci sono delle cose che mi indignano, ma che non trovo nemmeno così assurde. Cioè il fatto che ci sia stata a quel punto la mediazione, o quantomeno che si sia informato la curva, che chiaramente è un'immagine simbolica di resa assoluta davanti alle cariche dello Stato, il Presidente del CONI, il Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato, il fatto che ci sia andato a parlare con il capo della curva. Però alla fine in quel momento, ci piaccia o no, ma era l'unica cosa che bisognava fare se si voleva. Sì, la cosa drammatica è che quella persona era l'unica in grado di garantire l'ordine pubblico. Perché dentro quella curva e dentro le curve c'erano i razzi che non dovrebbero esserci, perché insomma questa è la verità. Per cui poi quell'immagine lì, che simbolicamente è la resa assoluta, ed è ancora peggio di altre volte, no? Rispetto alle famose maglie del Genoa, perché ieri c'erano proprio impotenti i massimi rappresentanti dello Stato e delle istituzioni. Però alla fine, in quel momento lì, se tu volevi giocare e non trasformare la serata di ieri sera in un problema ancora più grande, l'unica possibilità che avevi era quella mediazione lì. Quindi alla fine è drammatico, ma alla fine è stata fatta la decisione in quel momento più logica per poter... Sì, anche se quell'immagine, io adesso ti faccio sentire, sono 13 secondi, l'estratto della telecronaca di Rai Sport, ed è secondo me il simbolo di dove è arrivato il calcio italiano. Un tifoso del Napoli, a nome di tutta la tifoseria, ha detto giochiamo, si gioca. Okay, e infatti allora... le autorità stanno tornando indietro perché la curva ha detto sì, giochiamo. Devastante, la curva ha detto sì, secondo me il collega della Rai ha detto la verità, cioè ha detto quello che stava succedendo, anche se poi oggi un po' tutti hanno cercato di dire che non era vero. Intanto ti faccio sentire la ricostruzione che ha fatto la questura dell'episodio. Credo che sia senza precedenti da qualsiasi parte, perché uno che aggredisce prima comincia con questa azione di provocazioni nei confronti dei pullman, lì c'è la reazione violenta da parte dei tifosi del Napoli che lo rincorrono, lui cade e a questo punto, per sottrarsi all'aggressione che si andava a concretizzare nei suoi confronti, comincia a sparare. Pensare di inserire un discorso di questo genere in una prevedibilità, francamente. Quindi tutto imprevedibile, Pier. Oggi, pochi minuti fa, il ministro dell'Interno Alfano ha negato qualunque trattativa con gli ultra. Non c'è stata nessuna trattativa. Noi, come Stato italiano, eravamo e siamo e saremo in grado di garantire l'ordine pubblico, sia fuori che dentro lo stadio, tant'è che anche il ferimento si è verificato a 3-4 chilometri dallo stadio. Poi, acquisito che quel ferimento nulla c'entrava con la vicenda sportiva, con la partita, la società del Napoli ha ritenuto di fare incontrare AMSIC con un alto dirigente e con uno della curva per chiarire che non c'era stato un attacco alla tifoseria del Napoli in quanto tale, ma noi come forze di polizia, come governo, come paese non abbiamo fatto nessuna trattativa, ma non sta né in cielo né in terra un'ipotesi di questo genere. Pier, ma non c'era bisogno di far sapere come erano andate le cose a quelli del Porto del Napoli, perché come Napoli sapevano benissimo come erano andate le cose. Semmai l'unico aggiornamento che si poteva dare in quel momento era un aggiornamento sulle condizioni del tifoso, e non abbiamo detto ovviamente in questi minuti il tifoso sotto i ferri, indipendentemente dalla dinamica che si sta chiarendo, che dovrà essere ancora chiarita, facciamo tutti il tifo per lui e speriamo che ragazzi. Sì, resta gravissimo. Lo diciamo con tutto il cuore, veramente. Si dice sia cosciente, però evidentemente è una situazione ancora critica. No, una situazione che ci fa venire la pelle d'oca, ci fa stare in pensiero, e quindi forza. Filo, questo non ci sono dubbi, non ci sono discussioni e o equivoci di sorta, no? E quindi, però insomma, credo che l'unica notizia fosse quella. Poi c'è stato, diciamo, il classico corollario delle spiegazioni che vengono date per ordine pubblico. In realtà stamattina abbiamo capito che sì, insomma, probabilmente è stato un episodio isolato, ma comunque una matrice, diciamo, di rivalità calcistiche. Pier, prima del traffico ti faccio sentire Marisa Grasso, la vedova di Filippo Raciti. Ci siamo sentiti umiliati, offesi alla memoria di mio marito, indignati, ci siamo vergognati, impotenti. Ma alla fine perché noi dobbiamo essere impotenti? Se in quella tribuna c'erano i vertici dello Stato che dovrebbero essere accanto a noi, accanto alle famiglie delle forze dell'ordine, solidari nei confronti di chi ha perso la vita, nei confronti dei suoi colleghi, ci siamo sentiti così offesi. Hanno dimenticato. Perché il dolore non è capitato a casa loro, il dolore è capitato a casa mia, le lotte, le battaglie le portiamo avanti, e non è giusto vedere questa debolezza. Ecco, la parola giusta è la debolezza dello Stato. Ieri ho visto la debolezza dello Stato. Oggi gli ha risposto così Alfano. Ho provato dolore, ho provato tanto dolore. Oggi ho sentito la signora Marisa. La signora Marisa Grasso Raciti, le ho detto che noi ci sentiamo tutti Filippo Raciti, che noi siamo dalla parte della divisa, dalla parte di suo marito, e andrò a trovarla da Cireale nella prima occasione in cui mi recherò in Sicilia, perché dietro quella divisa c'è l'onore di centinaia di migliaia di uomini. Tutti convocati. Intanto giocatori della Juventus che stanno festeggiando in ritiro prima della gara con l'Atalanta, c'è anche il mea culpa di Garcia, lo sentiremo tra pochi minuti. Ho sbagliato a dire che il campionato era chiuso, sono deluso per la sconfitta di oggi, sono deluso che la squadra abbia mollato così, lo sentiremo. Pier, a proposito di Alfano, io sono anche un po' stufo di sentire questi slogan, siamo tutti Filippo Raciti, insomma ieri mi sembrava abbastanza chiaro che non era accettabile il confronto con un personaggio che si presentava anche visivamente così, lasciando stare poi la storia personale sua e della sua famiglia. Ragazzi, qua si è cercato di risolvere questo problema con circumnavigandolo. Sono state fatte una serie di norme, di leggi che hanno complicato l'accesso allo stadio, che hanno complicato la presenza allo stadio, poi mediamente magari di persone che invece allo stadio potevano contribuire a svelenire il clima, la tessera del tifoso, una serie di violazioni delle libertà individuali profondissime, stadi chiusi, trasferte vietate, per poi che c'era il fatto che non c'erano incidenti, come se, per esempio, che faccio spesso, come se chiudi l'autostrada e poi alla fine della strada, beh, non ci sono stati incidenti, grazie, hai chiuso l'autostrada. Sì, la cosa è strutturale. Sì, la cosa in Inghilterra l'hanno risolta in maniera strutturale. L'hanno risolta dando un potere di investigazione di un certo tipo alle forze dell'ordine, dando una certezza del diritto. Queste ore, insomma, ci siamo resi conto, ovviamente, fermo restando la presunzione di innocenza, ma di quello che è il presunto colpevole dell'episodio di ieri, che pare abbia un record, diciamo, dei precedenti non da poco, no? Sì, personaggio assolutamente noto alle forze dell'ordine, quindi, proprio per la sua attività di ex Capultra. E questa cosa qui, io spero che ci possa essere una saldatura da parte di tutti per cambiare completamente passo, perché così non è. Sì, io non sono molto fiducioso, Pier, te lo dico sinceramente. Non sono fiducioso, ieri è stata una giornata di merda, diciamolo proprio, ecco, sì. Lo sfogo, tra l'altro era a Roma, proprio era stata una cosa bruttissima, proprio una limitazione delle libertà individuali delle persone, la vita del tifoso onesto diventa un inferno perché sei sottoposto a una serie di controlli, di vessazioni. E poi vedi che è permesso di tutto agli altri. E intanto saluto Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao. Stiamo parlando di quello che è successo ieri, c'è anche da celebrare lo scudetto della Juventus. Allora io partirei proprio da Rudy Garcia pochi istanti fa. Questa sconfitta oggi non cancella nulla sulla grande stagione della Roma, ma rimangono ancora due partite e io mi aspetto una risposta domenica prossima, soprattutto questo. Ma l'abitudine di vincere in Italia, questo fa la differenza. Noi abbiamo imparato tanto questa stagione, ma dobbiamo finire il campionato in modo migliore che oggi. Questo Garcia mi sembra un atto d'accusa verso i suoi giocatori, anche una presa di coscienza che forse in Italia certe cose non si possono dire, compreso il campionato è finito, la Juve l'ha vinto, complimenti, detto forse con 90 minuti d'anticipo. Direttore? Beh sì, insomma, sono mille motivi anche sullo stop della Roma di oggi. Devo dire che lo stesso Garcia ha contribuito con quello che ha detto ieri, perché insomma lui ha parlato di fine della ricreazione, fine un pochettino degli scambi di battute con Conte o con la Juventus, quindi un pochettino ha mollato lui gli ormeggi. Quindi adesso che si meravigli di questo atteggiamento della Roma, insomma, è un po' strano. Però detto questo, non è che lui fa una critica ai suoi, li vuol tenere bene in palla per il confronto con la Juventus, perché quella magari è una motivazione molto forte per i giocatori, se non altro per una linea di principio, insomma, battere gli attuali campioni d'Italia, i nuovi campioni d'Italia, che poi sono conferma di quelli precedenti, insomma è una bella sfida per loro. Intanto direttamente da Roma, ecco qui con noi Pierluigi Pardo. Ciao Pier, che ha mollato il telefono e lo abbiamo qui con noi, siamo con Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Pier, amara però la considerazione di Garcia, che evidentemente dice ho sbagliato con 90 minuti d'anticipo, sì, dato chiuso lo scudetto. È una dimostrazione, secondo me, della qualità dell'uomo che tante volte pensavamo in queste giornate che la Roma potesse mollare, no? E non era mai successo. È successo oggi in maniera abbastanza clamorosa, e il fatto che lui faccia mea culpa, cioè si senta responsabile di tutto questo, secondo me è un'ulteriore medaglia per quella che è la sua mentalità. Poi insomma, nei fatti la Juve è stata bravissima in queste settimane a fermare ogni attacco e ogni tentativo, al punto che a Roma insomma c'era un po' ormai il paradosso, quasi era quasi un motivo di rosicamento, come si dice a Roma, il fatto che la squadra continuasse a fare punti e continuasse a collezionare record. E la Juve continuasse ad andare ancora più veloce. Direttore, scudetto della Juventus sopra ogni dubbio. Ancora ieri in conferenza stampa qualcuno ha chiesto a Garcia se si sentiva vincitore morale di questo campionato. Beh, insomma, ed è sicuramente la sorpresa della stagione. La Roma arrivava da due campionati disastrosi, Garcia l'ha rimessa in sesto, ha fatto il record di punti appunto per la Roma stessa, quindi sicuramente la squadra sorpresa, la squadra rivelazione sotto tutti i punti di vista, sia come assemblaggio di squadra, come qualità di gioco, come allenatore. Però la Juventus è campione d'Italia e la Juventus ha dato una dimostrazione di forza in questo campionato incredibile in Italia. Poi in Europa abbiamo altre miserie, purtroppo. Ti faccio sentire Alfano, pochi minuti fa, parlando degli incidenti di ieri, parlava a Rai 1 sull'ipotesi di un nuovo giro di vite, un nuovo inasprimento delle pene. Alfano. Sto pensando anche al DASPO a vita. Ecco, questo sarebbe il divieto importante. Di accesso a vita per chi viola determinati comportamenti, ad un rafforzamento del DASPO. Cosa ne pensi, direttore? Chiacchiere. Cioè, io per carità ritengo che sono le intenzioni sono sempre giuste. In Italia abbiamo tantissime buone intenzioni, poi non le applichiamo mai. Poi non si riesce mai a vedere fine di un percorso. Sequestrano una bottiglietta d'acqua a una bambina di 10 anni e fanno entrare petardi, fanno entrare individui con delle magliette con delle scritte allucinanti, fanno patteggiare, diciamo, i giocatori del Napoli sotto la curva davanti agli occhi di tutte le istituzioni. Se il pericolo era quello di mandare per strada le persone, beh, insomma, sarebbe stato forse un minor danno di immagine rispetto a quello che hanno dato di estrema debolezza le forze dell'ordine davanti a tutta Italia. Sì, immagine assolutamente devastante. Io aggiungo che in tanti in questi mesi hanno inseguito le battaglie ultra anche sulle criticabilissime regole per la discriminazione territoriale, dando però un appoggio, un alibi che secondo me era assolutamente no, fuori luogo. Bisogna fare un po' tutti un passo indietro. La prima cosa che va fatta, che poi secondo me vale anche nei rapporti fra manifestanti e polizia, cioè bisogna decidere da che parte stare. Per me bisogna stare solo dalla parte dei non violenti. Quindi il fatto anche che in queste ore ci sia qualcuno, vedo sui social network, che continua a dividersi per bandiere, per striscioni, per dire però quello, cioè, ma chi se ne frega di che squadra è quello che ha aggredito? Cioè, non so, perché è una responsabilità penale che dovrà essere stabilita, pagherà, ma insomma qui dobbiamo fare tutti un salto di qualità, perché se no, se continuiamo a dire la sanzione è questa, però quell'altra squadra non gli squalificano la curva, te te l'hanno, cioè non ne usciamo più. Qui bisogna decidere. E poi secondo me bisogna anche dire che quello che abbiamo visto ieri, ed evidentemente è l'episodio più grave, quel conciliabolo per 40 minuti, direttore, non so se condividi, in realtà poi non è tanto diverso dalle squadre che ad esempio non riempono di bambini le curve squalificate per non urtare la suscettibilità degli ultras, l'ha fatto solo la Juventus, continuano a fare ricorso anche alle volte per battaglie perse, la Roma ad inizio anno che porta la sua squadra a sfilare sotto quella curva che un mese prima ha messo a ferro e fuoco Trigoria, cioè secondo me sono tanti segnali dello stesso male, direttore. Ma io dico che questa, se non è questa l'occasione finale, terminale, per poter mettere un punto su determinate cose che riguardano un certo mondo violento che frequenta gli stadi, beh, insomma, quale occasione si deve cogliere? Io dico chiacchiere rispetto a quello che ha detto Alfano, ma spero vivamente che finalmente si prenda atto di questa situazione. C'erano tutte le istituzioni, c'erano i massimi vertici del calcio, del CONI, che vogliamo di più? E adesso sotto i loro occhi prendano visione di quello che è successo e voltino pagina, anche per aiutare le società. Perché le società sono fragili rispetto a questi individui, certo. Sono fragili rispetto a queste realtà. Anche loro hanno bisogno di un aiuto che deve arrivare a una molteplicità di interessi che si coagulano in un solo grande interesse, rendere gli stadi più sicuri. Comunque il punto è la responsabilità penale e personale, cioè l'elemento fondamentale poi alla fine è questo, è applicare le regole, perché se tu giri per Piazza del Popolo, per Piazza del Duomo, sì, è impossibile Piazza fare Duomo, quello che accade, tiri un fumogeno, tiri un petardo addosso a qualcuno, addosso a un pompiere, penso che qualcosa ti succeda. Perché nello stadio non succede? E questo lo dico perché poi alla fine chi ci rimette in questa situazione, chi ci ha rimesso, sono i tifosi veri che in questi anni hanno assistito comprare il biglietto per una trasferta è come fare un rogito. Sì, è diventato impossibile. E secondo me c'è anche una componente all'interno delle curve di persone per bene che condividono valori di aggregazione, a me la generalizzazione, sapete, non mi è mai piaciuta, che però oggi sono in difficoltà, in enorme difficoltà, perché come oggi vai a spiegare che esistono anche gli ultrabuoni che nelle curve fanno anche solidarietà, beneficenza, è complicatissimo, oggi si fa una gran fatica, no? Non si deve fare una generalizzazione sul mondo ultra, quello. È sicuramente una frangia, cioè ogni tifoseria ha il suo, si chiama Jenny, cioè ogni tifoseria ha la sua bestia. Gennaro a Carogna. Esatto, il suo esemplare da esporre, ma sono quelli che noi non vogliamo vedere, ma non è che l'ultra, il fanatico, diciamo così, in senso buono della squadra, che magari professa la sua religione o la sua passione in maniera normale, debba essere penalizzato da questi estremisti. Comunque guardate, quella cosa lì di ieri, lo so che era bruttissima, che simbolicamente era proprio la sconfitta dello Stato davanti alle masse. Però era l'unico modo, però era l'unica cosa, quindi al di là del fastidio della maglia terribile, del paradosso di una maglia che inneggia una persona che è stata condannata, credo, in via definitiva. Insomma, c'è la certezza del diritto, così come c'è la presunzione di innocenza, fino a quando non passi in via definitiva, lì c'è ormai la certezza della colpevolezza. Sì, capisco anche la rabbia della vedova Raciti. Assolutamente. Direttore, ti salutiamo, solo un flash, domani hai già idea sulla prima pagina, scudetto Juve, come la giochi? Sì, insomma, è una celebrazione sicuramente dello scudetto della Juventus, chiaramente il giornale è preso anche da questa vicenda di Napoli, del ferimento e anche, insomma, tutto quello che è successo ieri. Quindi sono questi due argomenti. Grazie direttore. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Facciamo in tempo a prendere Simone da Verona. 800 24 00 24. Simone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, volevo rilanciarmi al discorso dei gravissimi episodi della partita di ieri. Aspetti che le faccio sentire Tevez in diretta Sky Sport, che parla dello scudetto. Descansando para la partida de domani, ma se veía o dentro l'albergo era una tensione. Ci stavamo riposando per la partita di domani, ma c'era grande tensione dentro l'albergo. Por mi compañero, conosce anche lo spagnolo. No, ho dormito 30 minuti. Ho dormito solo mezz'ora, poi alla fine, insomma, tutti gli altri festeggiavano, cominciava a spargersi la voce. Aspettava ganare lo scudetto dentro il campo domani. Speravo e mi aspettavo di vincere il campo, ma ora a festeggiare ora si festeggia, ovviamente. Chissà se arrivano o no a questi 100 punti. Prego Simone, che poi abbiamo la pubblicità. Brevemente volevo dire che siamo chiaramente lontani anni luce dalla civiltà degli stati tedeschi e inglesi, ma soprattutto quello che a me dà più fastidio è che ad ogni episodio grave, vedersi il caso Raciti, vedersi derby Roma-Inter, vedersi Roma-Lazio, il motorino nella curva dell'Inter, ogni volta si spendono fiumi di parole anche da parte dei politici e delle istituzioni, ma nulla cambia, siamo proprio il paese del gatto pardo nel quale tutto deve cambiare affinché nulla cambi. Sì, ha ragione Conte, lo ha detto. Poi lo sentiamo. Il prossimo episodio a commentare ancora più tra di noi. L'abbiamo detto, noi siamo abituati a toccare il fondo. Per l'ennesima volta dobbiamo sperare che qualcosa cambi. Grazie Simone. Adesso ne parliamo. Grazie Simone. Pubblicità. Intanto già non dovrebbe essere in quella posizione. Già questa è una situazione di pericolo anche per il tifoso che sta esprimendo non so quale opinione. Mario Somma. Beh, lui è uno di quelli che deve dare gli input per quanto riguarda i cori. Sicuramente ha bisogno di dover avere più spazio, uno spazio visibile da parte dei suoi tifosi in modo tale da poter dirigere i cori. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Lo rispondo, sapete perché? Perché c'è molta gente accanto e non riesco a capire bene. Questo è Buffon, Buffon e Totti che discutono dello scudetto della Roma. Intanto saluto Mario Ielpo, che abbiamo convocato anche per parlare del derby, perché in tutto questo, carissimo Pierre, c'è una partita, c'è anche bella. Ciao Mario. Ciao, buonasera a tutti. Ha detto che al dente è avvelenatissimo sulla questione tifosi. Vediamo se riusciamo a sentire un passaggio di Totti. Quando vai di fronte a una squadra che viaggia a questa velocità è difficile raggiungerla. Ha sempre disputato un grandissimo campionato, sta in testa alla classifica, noi era difficile stare dietro, però abbiamo fatto del tutto fino alla fine e oggi purtroppo abbiamo mollato. Hai visto Mario com'è rilassato Buffon, ormai si è abituato. Sì, direi che ne ha vinti troppi, no? Quindi tu ne hai vinti di scudetti? Io ne ho vinti due, sì. Di sì. Fila? No, alternati. Cioè, primo anno, il primo anno e il terzo anno del Milan. Beh, ho visto quello che mi meravigliò. Il primo anno del Milan, noi vincemmo a Torino contro la Juventus, 6-7 partite dalla fine, e insomma anche se non era matematica era la vittoria, e i miei compagni di squadra che avevano già vinto tutto, come se avessero vinto una partita qualsiasi. Normale. Esatto. Ma secondo te Pier gli ha tolto un po' il gusto domani sera di non vincerselo in campo? Bah, insomma, no. Non mi rispondere oggi, scudetto, oggi uno scudetto, no, eh. Oggi secondo me ma l'ha tolto un po' a tutti il gusto, nel senso, no, per dirti, è chiaro, anche come spettacolo la partita di domani chiaramente con lo scudetto da vincere aveva un senso, sì, un amichevole, molto diverso, un amichevole, però insomma diciamo che la sostanza non cambia, festeggeranno, ci sarà, diciamo ci sarà forse più tempo per organizzare la festa domani sera in maniera un po' più strutturata. Cattivissima la Roma, no, cioè li ha tenuti, li ha tenuti alla morte, li ha costretti tra virgolette a perdere l'Europa League, e poi non li ha fatti, gioire neanche in campo. L'aveva fatto anche il Milan qualche anno fa, sì, ricordo l'Inter vinse uno scudetto perché il Milan aveva perso a Udine contro l'Udinese. 800 24 00 24, Marco da Siena. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. No, senta, io volevo ritornare un attimo sulle cose di ieri, perché non sono per niente d'accordo con quello che avete detto. Siamo qui. Ecco, allora, io un pochino ho frequentato quegli ambienti quando ero ragazzo e vi assicuro che non c'è assolutamente la distinzione, o quantomeno questa distinzione tra ultras buoni, cattivi. Queste persone godono di un grosso seguito e le stesse società hanno paura ma hanno anche interesse, gli stessi giocatori hanno paura ma hanno anche un forte interesse. Avete citato il fatto di Trigoria, no? Nel senso, dopo che erano stati messi... Sì, un mese dopo che avevano messo a ferro e fuoco Trigoria, la squadra è stata portata sotto la curva sud. Ne hanno bisogno, o sono, tra virgolette, sotto minaccia? Questa ne hanno bisogno come ne avete bisogno tutti, nel senso, io per esempio sono tifoso della Juve, no? Sì. Cioè, Conte che dice voglio avere... la curva, il 14, sì, deve essere una bolgia. Mi scusi, lei pensa che se ci fossero 40.000 tifosi disorganizzati all'inglese che cantano per tutta la partita allo Juventus Stadium, dal punto di vista del risultato in campo, no, io poi chi ascolta questo programma lo sa, io sono contro la demonizzazione generalizzata del mondo ultra e lo ribadisco, lo dico, mi prendo le mie responsabilità, sono contrario a chi fa di tutto erba un fascio e demonizza tutti, perché secondo me come in tutte le cose non c'è il nero e il bianco ma ci sono varie sfumature di grigio. Detto questo, che le società o addirittura i media abbiano bisogno degli ultra, onestamente io ho commentato le partite in Inghilterra bellissime dove anche i tifosi sono caldi, sono disorganizzati, io ti posso far raccontare Pier da Mario Ielpo come ha vissuto lui da dentro questo rapporto con questi capi ultra. No, io non ho mai avuto rapporto, forse è stata anche una delle difficoltà della mia carriera, non ho mai conosciuto un capo ultra. Io sono dell'opinione completamente opposta. Secondo me sono un male totale del calcio, dovrebbero essere mandati fuori dallo stadio e sciolti perché sono un'associazione a delinquere. Finché non si arriva a questo, la tocca piano, è l'avvocato Ielpo, parla non parlo al di là della carriera, non faccio penale, quindi ne parlo anche non con cognizione di causa, ma voglio dire, secondo me questo è il problema. Finché non si realizza questo fatto, che loro si associano per fare una cosa che è negativa e non che è positiva, e purtroppo gli si dà sempre un'altra possibilità di esistere, e secondo me purtroppo non si risolverà mai il problema. Francesco da Trento, Francesco. Sì, allora buonasera. Eccoci. A tutti. Buonasera. Prego. Senta, nulla, io in merito sempre al discorso della partita di ieri, quello che la prima cosa che non vedevo fuori luogo alla fine, insomma, era quelle lì nazionale cantando, che era una presa per il culo, mi scusi. Sì, c'è stato anche la questione dell'inno nazionale. Una tristezza infinita. Perché, mi scusi, io sono di Trento, ma da anni sono di origine campana. Io penso che da ad oggi vedo questa presa in giro, mi scusi, tra nord e sud. Non vedo ancora questo vedo un'Italia divisa in due. Sì, vabbè, ma io non capisco perché tutto questo debba trasformarsi, che non si può neanche suonare e cantare l'inno prima della finale di Coppa Italia. Beh, mi perdoni, Francesco. Francamente va oltre, sì, ma poi succede anche all'estero, perché in Spagna ci sono i tifosi catalani. In Spagna è successo, per esempio, in occasione di Atletico Bilbao Barcellona, che fu la finale 2 anni fa, se non sbaglio, della Coppa del Re, ma lì sappiamo che c'è un discorso più profondo, nel senso che c'è una terra che è il País Vasco, che vuole, in cui c'è una grande fetta di separatisti, i catalani anche, insomma è completamente diverso. I fischi di ieri sera io li ho interpretati come dei fischi proprio di di malcontento su tutto, di critica totale al sistema, di contestazione in quel momento folle per altre cose che stavano succedendo. È dall'inizio dell'anno che esiste una guerra, che esiste secondo me una guerra di sopravvivenza del mondo ultra, e ripeto, secondo me hanno sbagliato anche le società a fare sponda, anche criticando, e possono essere criticate le norme di quest'anno, ma quante volte hanno fatto sponda e potevano semplicemente prendere la loro strada. Andrea dalla provincia di Biella. Andrea. Sì, buongiorno. Prego. Volevo intervenire sempre in merito a questo argomento, ma leggermente decentrato. Ritengo che non sia da sottovalutare l'aspetto e l'opinione dell'IPA per View, e mi spiego meglio. Il rendere complesso e con quantomeno più difficoltoso, avete detto in studio, uguale o simile a un rogito prendere un biglietto, insomma, l'interesse è quello di tenere la gente davanti alla televisione. Dico tutti, io ho l'abbonamento, sono della Juve. Mi scusi, non le faccio un discorso statistico, no, perché questa cosa qui ci tengo tantissimo, perché in tanti la pensano come lei. È un discorso statisticamente assurdo e le spiego perché. Allora, una partita di calcio in uno stadio, la media di spettatori in uno stadio quant'è? 18.000, 22.000 in Italia in questo momento. Sì, siamo con delle norme, con delle norme migliori, diciamo che possiamo arrivare a 30.000, a 35.000. Lei sa quanto sono gli ascolti di una partita, di un posticipo come Milan-Inter stasera? Milan-Inter stasera, fra Sky e Premium, la vedranno 4 milioni di persone. Quindi stiamo parlando di una cifra che statisticamente è un'inezia, e non c'è nessun dubbio che un prodotto anche televisivo, con uno stadio pieno, con una bella atmosfera, dove non succede niente, sarà meglio di uno stadio mezzo vuoto, sfigato. Non è un caso che quest'anno Inter e Milan non vendono il terzo anello. Io lo capisco perfettamente che è pieno di persone che dicono questa cosa, ma io non lo so. Io non ho trovato in questi anni, né a Sky né a Mediaset, nessuna persona che abbia mai pensato: ah beh, adesso è più difficile andare allo stadio, così facciamo più ascolti. Traffico, semmai il contrario. Traffico. Tutti convocati. Sì, dal primo giorno che è arrivato a Vinovo, quindi il suo lavoro è veramente un lavoro che si svolge principalmente durante la settimana e non solo la domenica. E questo quindi dobbiamo riconoscerlo tutti. Poi è chiaro che esiste anche quella che io definisco la squadra invisibile, che è composta da tutte le componenti societarie, che sicuramente non sono sotto la luce dei riflettori, ma che supportano l'attività della squadra. Siamo ai ringraziamenti di Marotta. Vi risparmio cosa viene scritto al 349-238-6666. Un paese dove i camorristi decidono se si deve giocare o no la partita fa veramente vomitare. Posso completare il discorso sulle televisioni di prima? Oltre a quello che abbiamo detto dal punto di vista statistico, cioè che veramente i numeri allo stadio sono numeri piccoli rispetto ai numeri, e che quindi non c'è nessun interesse nell'avere lo stadio vuoto. Anzi, c'è il fastidio nel raccontare uno spettacolo che chiaramente è meno bello visivamente. La TV vive le immagini, quindi la differenza fra uno stadio pieno e uno stadio vuoto è enorme. Ma poi c'è anche un effetto a catena. Cioè, per esempio, le immagini di ieri sono immagini che finiscono inevitabilmente per fare il giro del mondo e impoveriscono il calcio italiano e fanno passare ai giocatori stranieri la voglia di venire a giocare in Italia e rendono questo prodotto, se lo vogliamo vedere dal punto di vista del prodotto, sempre più debole. Al di là delle emozioni, dei sentimenti, se facciamo questo lavoro mediamente perché da piccoli magari andavamo per 12.000 lire d'articolo a fare degli articoli sul Cerveteri o non lo so, sul Cinzia Genzano nel caso specifico, no, la famosa gavetta, quindi vuol dire che questo gioco ti piace. Ma al di là di questo aspetto romantico, tutto questo uccide il calcio, lo uccide da ogni punto di vista. Insomma, io la sconfitta dell'altro giorno, l'uscita della Juve contro il Benfica, sicuramente ci hanno superato nel ranking, ma quello che è successo ieri, ma altro che il ranking, è un problema più grave. Vi faccio sentire, secondo me, la dichiarazione più, non lo so, l'aggettivo lo mettete voi, di ieri sera, il presidente De Laurentiis. Questa sera sì, c'è stato qualche petardo, c'è stata qualche fuoco, ma mi sembra che nello stadio si sia svolto uno spettacolo estremamente civile, perché con quelle che erano le notizie che arrivavano poteva essere una Santa Barbara che poteva scoppiare da un momento all'altro. Invece mi sembra che le tifoserie toscane e le tifoserie napoletane sono quelle che nell'arco del campionato italiano hanno dato più segno di civiltà e meno problemi di tutti quanti gli altri. Non so, Mario Ivelpo, io non so di che cosa stiamo parlando. Quando no, magari però... poi il presidente della federazione dice in alcuni stadi gli ultra hanno un ruolo inaccettabile. Ben svegliato, dico io, sì. Ben svegliato. No, ma è quello che dicevo prima io. Cioè, nel senso, quello che dice Laurentiis può essere vero per quello che è successo dentro lo stadio. Poi, insomma, la bomba carta che ci debba essere. No, ma c'è stata una pioggia, no? Di razzi, di bengala, le bolle lasciamo calma. Questo. Il problema è quello che dice l'altro rappresentante della federazione. Vabbè. Che ha detto, non l'ho sentito. E lì il problema è questo, cioè non è tanto il problema, è che tu devi scendere a patti con qualcuno per fare una partita, e questo successe la prima volta che io andai in panchina in una partita di professionisti, che era, non so, 35 anni fa, una partita di Coppa Italia eliminatoria della Lazio, in cui dovettero dare un risultato falso perché c'era stato un problema con partite, non so, annullate, cose, problemi già, per far sgomberare il Flaminio, perché allora la Lazio giocava al Flaminio perché avevano paura, rimanevate dentro che, fino, cioè, a chissà, esatto, quando il risultato dell'altra concorrente. Posso dire, della Laurenti, sì, chiaramente c'erano dei fuochi ieri, dei petardi, e questo è inaccettabile ed è il punto di partenza da dove abbiamo cominciato, cioè quella è la cosa assurda. C'è drammaticamente una verità nel discorso di De Laurentiis, ma secondo, cioè, secondo che, te De Laurentiis, con la situazione che si era creata, con la notizia del tifoso che stava così male, con comunque l'afflusso e deflusso allo stadio, insomma, da un certo punto in poi è, sinceramente è un discorso terribile che devo fare, ma da un certo punto in poi è andata anche bene. Vabbè, ma il problema... nel senso che comunque si è riusciti a trovare, a stare su un filo di equilibrio possibile che ha impedito la situazione di degenerare ulteriormente, certo. È una sconfitta. Sì, comunque, io mi chiedo se avrebbe potuto dire una cosa diversa. Secondo me non avrebbe potuto dirle, questo è un altro aspetto tutto sbagliato. Però vi chiedo di aprire una parentesi, perché sì, oggi c'è stata anche la MotoGP. Certo. Roberto Ungaro, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti. Valentino Rossi, secondo, te lo faccio sentire. Sono molto contento perché era dal 2010 che non salivo più sul podio a Jerez, che è una delle mie piste preferite. E quindi era molto importante per me cercare di fare una bella gara qui nella cattedrale, come la chiamano gli spagnoli. Che però vedo che ci ridi sulla cattedrale. No, no, è bello però, no, perché è il Gran Premio di Spagna con più storia, no? Quindi è il Gran Premio di Spagna per antonomasia, si dice così. E peccato per Marquez, mi sarebbe piaciuto stargli più vicino, ma andava veramente troppo forte. Io sono dovuto partire con la extra hard, all'inizio facevo fatica, ma è stata la scelta giusta perché penso che Jorge con la media abbia avuto dei problemi alla fine. Poi è arrivato Dani, però non mi sarei fatto fregare neanche morto all'ultimo giro, quindi, quindi sono arrivato davanti. Questo era Valentino Rossi, Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ha vinto Marquez, prima o poi dovremo patteggiare con lui per vedere un Gran Premio con esito diverso. Ennesima cavalcata solitaria, 4 su 4, non aveva mai vinto in questa pista, bisognava mettergli una zavorra perché va troppo forte, come dice Valentino. E questa non era la sua pista, non era un tracciato stop and go, curve accompagnate, Lorenzo teoricamente poteva essere avvantaggiato, e invece ha dimostrato anche qua, a parte i primi giri dove è rimasto un po' dentro, poi ha preso e se n'è andato, non c'è più stata storia. Bravissimo Valentino, perché a contenere un Jorge Lorenzo, ma soprattutto un Pedrosa in questa pista, vuol dire essere veramente in forma. Ci prova, si vede che sta modificando anche il suo stile di guida, si butta fuori, cerca di essere più Marquez, però a quell'altro, ragazzi, gli viene proprio bene, usa tutta la pista, i cordoli, fa dei numeri incredibili, e secondo me non c'è davvero più campionato. Sì, assolutamente intrattabile in questo momento. No, ti leggo la classifica: Marquez 100 punti dopo 4 gare, Pedrosa 72, Rossi 61, quindi siamo a 39 punti. Il sospetto che sia già in freezer questa stagione. Noi però festeggiamo per Romano Fenati, seconda vittoria consecutiva nella Moto3. C'è un futuro dopo Valentino o stiamo comunque parlando di mondi che non si toccano? No, no, il potenziale c'è. Valentino era un altro pianeta sotto tutti gli aspetti, ma Fenati va veramente forte, e non dimentichiamoci che vincere lì, nell'arena degli spagnoli, dove loro nascono e crescono con il campionato loro interno, il CEV, il campionato spagnolo, è davvero un esempio e una dimostrazione di grande forza. Bravo Fenati che si è ritrovato. Parlare di nuovo Valentino è un po' presto, secondo me, ancora. Quante possibilità ci sono che ci sia un campionato ancora aperto per chiudere? No, no, stiamo parlando ovviamente di Marquez. È triste arrendersi a maggio. Questo anticiperà di gran lunga il campionato, il mercato piloti, e perché lui ovviamente è al rinnovo, sono tutti al rinnovo quest'anno, e quindi anticiperà i giochi, ma secondo me 4 su 4, punteggio pieno, non c'è storia, deve accadergli qualche cosa. Il secondo, terzo, quarto posto al limite sarà divertente vedere chi se lo giocano, però ragazzi non c'è proprio storia. Marquez fa un altro sport, ma lo si vede in slow motion, lo si vede molto bene, lo possono capire tutti. Grazie Roberto. Prego voi. Grazie Roberto Ungaro, direttore di Riders. Intanto aggiornamento Pier, fine primo tempo, Atletico Madrid sotto 1-0 a Levante. E attenzione che Simeone rischia oggi di vedersi scivolare via un pezzetto di Liga, ma avremo modo di seguire tutto il secondo tempo dopo le 18, avremo modo di tornare a parlare sullo scudetto della Juventus, ancora su quello che è successo ieri a Roma per Fiorentina-Napoli, cercheremo anche di preparare il derby di San Siro di questa sera, Milan-Inter, che vale per l'Europa League, a maggior ragione dopo le vittorie del Torino e del Parma di questo pomeriggio, che mettono in pericolo secondo me anche la posizione, il quinto posto dell'Inter. Tutti convocati. 800 24 00 24. Carissimo Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Tutto bene? Benissimo, come no, guarda che bella giornata. Giornata bellissima, ti invidio che sei al mare, al lago, non lo so dove sei, in montagna. No, da nessuna parte. Sì, però ti invidio lo stesso. Intanto saluto anche Pierluigi, che intanto è andato, perché oggi è una domenica talmente complicata che lo vogliono a Mediaset. Pier, però stai lì, che restiamo lo stesso, sì, un po' in compagnia. C'è Mario Ielpo qui con me, perché c'è anche sto benedetto derby di cui parlare. Però Carlo, ti faccio sentire Alfano pochi minuti fa a proposito dei fatti di ieri di Roma, con la promessa dell'ennesimo giro di vite. Alfano: sto pensando anche al DASPO a vita. Ecco, questo il sarebbe il divieto importante di accesso a vita per chi viola determinati comportamenti, ad un rafforzamento del DASPO. Carlo, ma rafforziamolo sto DASPO. Sono veramente stufo di DASPO, di squalifica delle curve, di tutte queste cose qui. Tutto questo è un sacco di demagogia. I nomi li conosciamo, le facce le conosciamo, in Spagna hanno lanciato una banana, il tizio che l'ha lanciata non potrà più entrare nello stadio del Villarreal, e questo è quanto, insomma. Poi tutto il resto è politica, è demagogia, sono chiacchiere, ma chiacchiere che sentiamo da un sacco di tempo, quindi è tutto semplicemente molto fastidioso. Quindi, sì, tutto molto fastidioso, e secondo me, io lo dico oggi che siamo al 4 maggio, Pier, so che forse tu non condividi in pieno questo discorso, io segnalo che il prossimo 24 agosto si pretende di organizzare a Roma, Stadio Olimpico, la Supercoppa tra Juventus e Napoli. Io mi chiedo, e lo chiedo a te, lo chiedo a Carlo, lo chiedo a Mario Ielpo, se Roma è necessariamente una città adatta a questo tipo di manifestazioni. Secondo me non lo è, perché ha tifoserie problematiche, ha scarsa sicurezza intorno all'Olimpico, ha nodi irrisolti tra politica, frange ultra che spesso hanno reso, diciamo, meno io la penso così, diciamo la verità, diciamo anche le tifoserie di Roma difficilmente punibili. Ecco, 24 agosto si pensa di organizzare lì Juventus-Napoli. Pier. Sì, con una battuta si potrebbe dire che forse le vacanze possono salvarci, ma è una battuta disperata, perché in realtà hai ragione, ma addirittura ieri Abete, che insomma penso è sempre molto, diciamo, molto paludato nelle dichiarazioni, ha fatto capire che bisognerà fare una valutazione, nel senso che il fascino della finale unica di Coppa Italia della città, della capitale, è una cosa bellissima, però poi alla fine bisogna confrontarla con i fatti. Sarebbe l'ennesima sconfitta, cioè un paese che non riesce o che deve spostare la città dove si deve svolgere una finale perché non è in grado di garantire l'ordine pubblico, un paese finito, morto, moribondo. Io torno da Madrid, dove pochi giorni fa hanno fatto due semifinali di Champions League all'andata in due giorni consecutivi. Una roba senza grossi problemi, Carlo. No, non c'è molto da aggiungere, Giovanni. Noi lo diciamo oggi, lo lanciamo insieme, cosa... 4 maggio, non sa da giocare. Il 24 però, agosto, però non fatelo, una cosa, per favore, io ne faccio un'altra. Cioè, adesso, Pier, sinceramente, qui non è spostando continuiamo a circumnavigare il problema. Allora, va bene, spostiamo la finale di Coppa, non la facciamo più a Roma, facciamola a Bolzano. No, però secondo me significa anche prendere coscienza che ad esempio Roma è per certi versi un problema. Lo è. No, ma il punto è insieme a tutto il resto fare in questa dal punto di vista governativo un decreto, una legge per la quale da domani mattina quello che succede negli stadi è equiparato a quello che succede fuori dagli stadi, per cui se tu lanci un petardo e io con le immagini ti becco che hai lanciato un petardo, tu sei penalmente responsabile e paghi. Cioè, questa è secondo me la soluzione ai problemi. Poi c'è il discorso culturale, poi c'è il discorso, sapete, io ci tengo tantissimo, del coinvolgimento delle curve, perché io penso che la responsabilizzazione delle curve possa essere utile, cioè l'idea che possa esistere un servizio d'ordine che i tifosi possano diventare protagonisti di questo tipo di processo e che vadano coinvolti, secondo me è un aspetto importante, ma l'aspetto fondamentale è quello lì. L'aspetto fondamentale è la certezza di quanti arresti ci saranno da una cosa come quella che è successa sì, ieri. Ce ne sono stati 4, secondo me ci fermeremo lì, anche se evidentemente quello che è successo ieri non si chiuderà con nulla. Che in TV non esiste un po', no? Sì. Il problema si risolve in quel modo, cambiando le regole o magari semplicemente applicando le regole. Poi sono tutti variativi, sì, non giochiamo la finale, giochiamo a porte chiuse, vietiamo le trasferte. Immagina oggi, a proposito di scenari apocalittici, un Roma-Napoli oggi, no? Anche se poi... Ma me lo immagino difficile anche a ottobre, figuriamoci oggi. Carlo, ti faccio sentire Montella, secondo me uno dei più lucidi, ieri a caldo, Montella. È successo anche in altre volte, no? Mi è successo anche a me personalmente. Purtroppo il calcio italiano, la società è così, c'è incredulità, anche tra gli italiani, ma c'era grandissima incredulità tra tanti stranieri che erano nel tunnel, e credo che in questo modo perderemmo tanti giocatori che sceglieranno altre strade, se possono scegliere. Allora, che noi perdiamo dei top player, secondo me è il meno dei problemi, però Carlo, queste parole hanno un senso. Ieri il sito del Mundo Deportivo, mezz'ora dopo la partita, titolava: il figlio di un camorrista decide che si può giocare la finale, cioè, a livello di immagine sarà un accaporetto. Beh, purtroppo non ha ragione. Purtroppo ha ragione anche quel tizio che l'altro giorno in Inghilterra ha scritto: Napoli, squadra collusa con la mafia, vicino alla mafia, nel bacino della mafia, che era una stronzata chiaramente, ma finisce per aver ragione. Cioè, allora, il problema della violenza negli stadi, parliamoci chiaro, in questo momento è molto meno urgente di quanto non fosse negli anni 80, 70, 80, 90, perché allora c'erano veramente delle battaglie agli stadi ad ogni domenica, ok? Adesso il problema, secondo me, è esclusivamente economico, e cioè sta nella collusione tra le frange estremiste degli ultra e le società, perché è una questione economica, è una questione di soldi, è una questione di ricatti. Anche tutte queste pagliacciate della squalifica delle curve, della chiusura delle curve per discriminazione territoriale, per insulti razzisti, eccetera, è esclusivamente un'arma a favore degli ultra, perché gli ultra sanno benissimo quello che vanno a fare allo stadio, e lo sanno in maniera premeditata. Di conseguenza è su questo fronte che bisogna agire, perché è esclusivamente una battaglia di potere prevalentemente economica. Non possiamo parlare di violenza intorno al calcio, perché, ragazzi, parliamoci chiaro, negli anni 70, 80, sì, andava, 90 andava peggio negli fuori stadi. Dagli stadi era battaglia ogni santa domenica. Adesso, onestamente, fuori dagli stadi non succede quasi nulla, ok? Non succede quasi nulla. Ieri sono stati degli scontri, ok, siamo qui a parlarne, però non è una questione di violenza intorno al calcio, è questione di una battaglia economica, di una battaglia di potere tra gli oltranzisti del calcio, che guadagnano che lo fanno per professione e che guadagnano da questa situazione, e i club che in qualche modo dovrebbero cercare di allontanarli e affrancarsi, che si mettono a pecoroni davanti a questi, come ieri i giocatori si sono messi a pecoroni davanti a quelli chiedendo: possiamo giocare? È questo il vero punto. Traffico. È questo il vero punto. Tutti convocati. 800 24 00 24. Carlo, prima di salutarti, una parola sullo scudetto della Juve. Ha scelto la domenica sbagliata, ha scritto qualcuno, per festeggiare, per vincere. Carlo, ma la Juventus non ha scelto niente. È stata la Roma a probabilmente scegliere lo scudetto della Juventus. Se si poteva fare uno sberleffo, questo era sullo scudetto della Juventus. Io l'ho detto un miliardo di volte, la Juventus ha vinto lo scudetto il giorno della Befana, volendo, quando sì, con quel 3-0 nel confronto diretto, che poi ha chiarito il rapporto di forza. Il resto mancia, sì, chiaro, il resto mancia. E poi si trattava soltanto di capire qual era il giorno è stato questo, e la Roma ha scelto, magari, non lo so, se vogliamo essere maliziosi, ha scelto, se vogliamo essere buonisti, è capitato. La Juventus festeggia lo scudetto senza giocare, perché la Roma perde a Catania. Sì, io non sarei malizioso questa volta, secondo me semplicemente è difficile, dopo aver tenuto alta la tensione, proseguire oggi. Semplicemente la Roma ha pagato il conto tutto insieme. Grazie Carlo. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao Pier. Ciao a tutti. Grazie Carlo. Allora, 800 24 00 24. Intanto Atletico Madrid, che è sempre sotto, 1-0 contro il Levante. Partiamo da Francesco, dalla provincia di Novara. Francesco, buonasera. Buonasera, prego. Ma niente, io vorrei dire la mia sugli incidenti di ieri. Sì. Agli stadi basterebbe togliere gli striscioni, per esempio nella curva della Juventus c'è un... Il gruppo leader della curva si chiamano drughi, e non so cosa c'entra il fatto dei drughi, che come molti richiamano sempre alla violenza, non c'entra niente con il calcio, tanto che poi anche quando hanno preso la multa per i cori razzisti sono riusciti persino a offendere anche la moglie di Scirea. E la Juventus non ha neanche preso. Ci sono logiche particolari. Grazie Francesco. In fondo ci sono altri modelli, quello inglese ad esempio, dove anche gli striscioni è complicato farli entrare in uno stadio. Mario? No, io sono d'accordo con l'ascoltatore, secondo me gli striscioni identificativi di gruppi dovrebbero essere tolti, non vedo il motivo per cui esistano. Non deve esistere un'entità che ha un potere di confronto con nessuno, cioè sono spettatori, vanno a vedere la partita, se gli piace ci vanno, se non gli piace non ci vanno. Quando si crea un'entità che poi ha dietro tutto quello che ha dietro, diventa sempre pericoloso. Non deve esserci un'entità di riferimento. Scrive un amico: secondo me il problema è che il calcio ha troppa importanza a livello mediatico e spesso viene messo davanti a notizie politiche o di vita quotidiana che sono più importanti. Si dice anche: in Italia si lanciano estintori, si dedicano e ti dedicano un'aula al Senato, ma di che cosa parliamo? Sergio da Bergamo, secondo me si fa confusione. Restiamo sul calcio. Stefano da Roma. Stefano. Buonasera. Buonasera, prego. Posso sapere il suo nome? Sì, Giovanni Capuano, perché? Ok, no, è perché comunque sia io vi ascolto praticamente tutti i giorni e c'è sempre sì. Carlo Getta. Sì, va bene, dica okay. Stefano. Sì, io non accetto da romano l'idea che lei ha proposto prima, che Roma non possa ospitare la finale di Supercoppa, tanto quello che è successo ieri. Non accetto proprio. Non so, se a lei sembra sensato che il 24 agosto i tifosi del Napoli insieme ai tifosi della Juventus, quindi 40-50 mila persone, arrivino a Roma, io dico dopo quello che è accaduto ieri, ma secondo me il problema è a monte, andrebbe anche fatto il ragionamento ad esempio sulle finali uniche di Coppa Italia. Io non lo so, a me sembra un discorso di buon senso. Mario Ielpo. Ma io sono di Roma, quindi sono parte in causa, diciamo così, e do ragione a te invece, Giovanni. Se c'è un problema, perché bisogna andarci a buttare dentro a capofitto? Mi ricordo che per i mondiali Italia 90, non so se volontariamente o per caso, le tifoserie più pericolose del momento, che erano gli hooligans, furono mandati da me a Cagliari, perché così stavano un po' lontane da tutti gli altri. Quindi non so se lo fecero apposta, però insomma si diceva che fu fatto apposta di mandare l'Inghilterra, l'Irlanda in Sardegna, di modo che stavano un po' fuori dalle altre parti. Metterli proprio in mezzo, dove ci sono dei rancori tra napoletani e romanisti, si sa, mi sembra sbagliato. Stefano, prego, sì, però, ti ho interrotto. Sì, no, ma rispetto al discorso di Ielpo, ma lì era... Irlanda, Inghilterra erano spostati a Napoli, così eventualmente tra Juventus Napoli a Roma, quindi eventualmente saremmo, cioè, chi e che cosa dice che eventualmente spostandola a Milano piuttosto che a Bologna, a Firenze, non so, a Palermo, non potrebbero succedere gli stessi problemi? No, io credo che la certezza non ce l'abbia nessuno. Io pongo però un problema di opportunità e resto convinto, così come resto convinto che non necessariamente Roma debba essere il centro di qualunque evento neutro calcistico o sportivo italiano. È diverso dal caso di Londra, dove c'è ad esempio uno stadio che è lo stadio della nazionale, non è lo stadio dell'Arsenal o del Tottenham o del Chelsea, che è il fulcro di queste cose. Grazie comunque Stefano. Umberto da Napoli. Umberto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, tutti hanno dato per scontato che sia stato il ormai famoso Gennia Carogna ad aver deciso se la partita si disputasse, ma qualcuno ha interpretato la questura? No, ma l'abbiamo, però Umberto, no, l'abbiamo fatta sentire, sì, abbiamo fatto sentire la questura, momento, abbiamo fatto sentire il ministro dell'Interno. Gli animi nella curva erano esasperati. Un annuncio dello speaker sarebbe servito a zero. Tantomeno la questura avrebbe avuto appeal sui tifosi, che in curva non si sapeva niente, si sapeva di persone che erano state sparate, si diceva addirittura che vi erano state bombe tirate addosso ai tifosi napoletani. Sì, che poi, insomma... ce ne sono state 3 persone sparate, quindi sparate mai, io ricordo, seguendo gli stati da molti anni, che si sono utilizzate le pistole per aggredire l'avversario. L'unica persona che poteva avere un appeal sulla curva era il capo ultra. Sì, era Jenny a Carogna. Però Umberto, se tutto questo le sembra normale, io non so, io guardo Mario Ieri. No, ma il problema è questo, me. No? Ma è vero, se è tutto normale. Ma il problema è che questo signore non dovrebbe avere nessun potere, nessun appeal, nel famoso derby sospeso all'Olimpico, sì, quando la voce che girava era quella del bambino che era, sì, rimasto, sì, sospeso da Gastone, morto, tra l'altro, l'altro morto, protagonista di questo triangolo. Io mi ricordo benissimo che ci fu alla fine del primo tempo, ci furono gli annunci dello speaker, i dirigenti della Digos e della questura che diedero assolutamente la notizia, assolutamente non è vero come è successo. Però io vi dico la verità, all'interno dello stadio la mia percezione era che non ci credesse nessuno e che pensassero che fosse un tipo di annuncio dato per tranquillizzare gli animi. Sì, un po' Umberto, abbiamo capito, però Pier, a me sembra che siamo sempre sullo stesso punto. È evidente che ieri, se i dirigenti della questura sono andati lì, è perché lì sapevano di poter avere delle garanzie. Il problema è quello. Il problema è che all'interno di uno stadio, con una tribuna d'onore piena dei vertici del governo, con i numeri uno dell'ordine pubblico in campo, si è dovuti andare dal capo ultra della curva A del Napoli. Il problema è quello. Chiaramente dal punto di vista simbolico è una cosa assurda. Sì, una cosa possiamo, assurda. Poi sappiamo tutti che doveva essere così dal punto di vista dell'ordine pubblico. Comunque, ribadiamo, cioè tutte le soluzioni, anche il discorso di prima, oggi poi si farà una valutazione di ordine pubblico e si cercherà di capire se Roma è la sede più adatta o meno adatta. È chiaro che in questo momento c'è il forte sospetto che Roma non sia la sede più adatta per ospitare una partita in campo neutro del Napoli fra 50 giorni. Quindi su questo non ci sono dubbi, però tutte queste valutazioni, questi palliativi, giocarla a porte chiuse, spostarla, giocarla a Reykjavik, giocarla a Pechino, non cambiano la sostanza. Se noi vogliamo cambiare realmente le cose, dobbiamo punire i comportamenti che sono comportamenti penalmente punibili. Cioè, l'avvocato non se ne esce, bisogna partire da qui. Poi il resto sono tutti discorsi così, fatti per tamponare l'emergenza, per cui c'è un problema. È chiaro che, come anche ieri sentivo alla radio, si facevano dei discorsi sull'orario, ma i tafferugli sono venuti a metà pomeriggio, quindi non è che se giochi alle 3 non ci sono i tafferugli. I tafferugli ci sono se ci devono essere, se ci sono le condizioni perché ci siano. Sì, soprattutto se, come in questo caso, sono in qualche modo frutto di un agguato pensato, organizzato, con tutto quello che è stato ricostruito anche dalla questura. Pier, però proviamo un attimino a cambiare anche rotta. Intanto Levante 2, Atletico Madrid 0. Si sta compiendo un altro suicidio sportivo. La Coppa si paga. Coppa si paga. Noi una settimana fa abbiamo raccontato la caduta del Liverpool in casa con il Chelsea e oggi stiamo raccontando questo Atletico Madrid. Tra l'altro sto seguendo la partita Atletico Madrid, che merita di essere sotto 2-0, squadra davvero in difficoltà. Saluto anche Aldo Serena, ciao Aldo. Ciao a tutti. Perché parliamo un po' anche di questo derby che 20:45 vale molto, perché do un'occhiata alla classifica nella zona Europa League, classifica che in questo momento dice Inter 57, Torino 55, Parma 54, poi ci sono Lazio e Verona 52, ma giocano tra domani e martedì, e poi Milan 51. C'è la sensazione, Aldo, che nessuno, ma nemmeno l'Inter, possa permettersi di non vincerlo. Esatto, oggi Torino e Parma hanno fatto il loro dovere, poi si incontreranno domenica prossima, quindi un duello avvincente, e il Milan non ha alternative che vincere questa sera, e per l'Inter forse anche un pari potrebbe star bene. Pier? Sì, sono d'accordo, io penso che per il Milan sia complicato, cioè anche se dovesse vincere stasera per il Milan è complicato, deve fare 9 punti fra derby, Atalanta e Sassuolo e sperare per poter arrivare in Europa League. L'Inter è in una situazione, stasera ha 2 risultati su 3. Poi non lo so però, Pier, cioè, secondo me la notizia di oggi è questa, io do un'occhiata, penso che l'Inter poi alla partita con la Lazio, che a questo punto è un confronto diretto, e poi la trasferta a Verona col Chievo, e sarà una partita della vita e della morte per il Chievo, perché la situazione in coda alla classifica si è ingarbugliata, secondo me la notizia di questo pomeriggio è che questo è un derby che ha vita anche per l'Inter. È vero, perché non stavo considerando lo scontro diretto, che è fondamentale, anche perché l'Inter all'andata l'ha perso con la Lazio, quindi se l'Inter oggi pareggiasse andrebbe a 58 e è tutt'altro che finita. Però insomma, tendenzialmente io credo, almeno come canovaccio di partenza, ammesso e me lo auguro con tutto il cuore, che l'Europa League venga considerato come un obiettivo per il quale proprio spendere ogni energia, lottare col coltello fra i denti, perché non so se abbiamo capito che quello che possiamo fare oggi in Europa noi purtroppo è l'Europa League in questo momento, e per farlo dobbiamo essere bravi, quindi è importante fare tutto per poterci andare. E quindi, ammesso che ci sia questo tipo di atteggiamento, io penso che il Milan comunque è quella la squadra che deve scoprirsi di più, perché deve provare assolutamente ad attaccare fin dai primi minuti, poi se ne avrà la forza non lo so. Aldo. Con la speranza che questa coscienza, di questa grande volontà di tutte queste squadre andare in Europa League, poi venga confermata il prossimo anno con formazioni dignitose, certo, all'altezza, perché quest'anno non sempre le nostre squadre hanno affrontato l'Europa League con il giusto piglio. Sì, secondo me questa è una certezza, almeno giudicando anche in parte come è stata presa l'Europa League quest'anno, perché poi sul ranking andrebbero dette tante cose. Pier, ti saluto, ciao Mario, a partire dalle 14:05 chiedo invece a tutti gli altri ancora un minuto di pazienza, torniamo subito. Signor Vagliani ha detto sin dall'inizio, lei è l'allenatore e lei ha l'autonomia per scegliere, diciamo, ovviamente chi va in campo. Come io ho detto che non voglio fare l'amministratore, lui ha detto io non voglio fare l'allenatore, quindi siamo in totale sintonia, ovviamente tutti cercando di fare l'interesse del Milan, e questa è la cosa più importante, quindi non mettere in dubbio, diciamo, neanche queste cose, insomma. Tutti convocati. Poco più di 10 minuti alla fine, Levante 2, Atletico Madrid 0. In questo momento la classifica della Liga dice Atletico Madrid 88 punti e ancora 2 gare da giocare, Barcellona 85 e 2 gare da giocare, Real Madrid 82, ma a questo punto mancano 4 gare da giocare, a partire dalla sfida con il Valencia di questa sera, poi il recupero col Valladolid. Insomma, diciamo la verità, se l'Atletico Madrid perde o anche pareggia oggi, e ripeto sta perdendo 2-0 con il Levante, c'è il fondato rischio che Carletto Ancelotti possa fare il double, Coppa Campioni più Liga. Sta giocando anche la Premier, 10 minuti alla fine, 12 minuti alla fine, 0-0 tra Chelsea e Norwich. Questo pareggio potrebbe definitivamente cancellare le speranze del Chelsea in un miracolo ancora possibile ma non probabile, per rimontare Liverpool e Manchester City. Aldo Serena, ti faccio sentire ancora Seedorf, ieri l'abbiamo sentito sulla formazione che non la fa Gagliani, te lo faccio sentire sul suo futuro. Io già la conferma, ho 2 anni di contratto, il contrario che non è mai detto è quello che dite voi, quindi direi che è stato abbastanza chiaro. Io non comunico con la società attraverso voi, lo faccio direttamente. Aldo, tu hai capito che cosa è successo tra Seedorf e il Milan? Devo dire che è una frattura che sembra profonda, Non ho ben capito i motivi, perché credo tutti conoscessero la personalità di Seedorf, il modo e l'approccio ai problemi, e gli è stata data la panchina, e quindi probabilmente un po' di tolleranza da parte della società ci doveva essere. È vero che forse Seedorf anche non si è posto con un minimo di delicatezza, è arrivato a metà stagione con un po' di presunzione, andando a cercare di cambiare le cose quando forse avrebbe fatto meglio magari a incidere meno, a cercare di mediare di più. Hanno sbagliato entrambi e probabilmente sono ai capolinea. Mario, tu hai capito che cosa è successo? Perché i risultati, diciamo la verità, a parte l'inizio un po' complicato, a parte l'eliminazione della Coppa Italia, poi molti hanno sottovalutato l'Atletico Madrid, mi sembra che, visto il cammino in Champions, non sia un problema di Seedorf essere usciti o meno con l'Atletico Madrid. I risultati non sono pessimi, in fondo ha ragione lui quando dice: guardate che campionato abbiamo fatto, nel girone di ritorno il Milan sarebbe terzo o quarto per punti fatti in una classifica virtuale. Ma non lo so, credo che ci sono un po' di voci che girano, qualche problema con l'incontro con i tifosi, qualche altra voce del fatto che voglia mettere bocca anche in campi che non gli competono. Comunque l'evidenza è che la società non è con Seedorf, ed è questo è stranissimo dopo pochissimi mesi, e perché insomma chi conosce Seedorf sa che sta facendo nient'altro che Seedorf. Quindi, come ha detto Aldo prima, lo dovevano sapere quando l'hanno preso, il carattere di Seedorf, il suo modo di comportarsi. Sicuramente non è un umile, quindi è molto strano questa cosa qui. È chiaro che quando si è così, come dire, si pensa di essere sempre migliori, o si fa il Mourinho, cioè si vince, oppure si va in mezzo alle critiche più feroci. Io credo, Aldo, che abbia ragione Seedorf quando si lamenta di non aver trovato la società che lui ricordava, capace anche di proteggere il proprio tecnico nei momenti difficili. Ma non è passato un secolo, perché in fondo con Allegri, mi sembra, Aldo, Serena, sia stato fatto questo per mesi, anche nei mesi più difficili, fino al tracollo col Sassuolo. È vero, probabilmente sono state valutazioni fatte anche non bene da Seedorf, che si è trovato ad arrivare in una società nella quale c'erano due personaggi che al potere, e quindi lui, per non sceglierne né uno, è andato direttamente dal capo, quindi ha fatto due torti, pensava di non farne neanche uno, invece si è inimicato, secondo me, tutte le posizioni. Vi faccio sentire Mazzarri ieri su Seedorf, velenoso, Mazzarri su Seedorf. Vedete, in questo mondo, un po', dico la verità, essere stati grandi campioni, aver conosciuto presidenti, farsi conoscere da presidenti di squadre di elite come l'Inter, Milan, la Juventus, eccetera, eccetera, hanno vantaggi. È successo di fare una carriera veloce a Mancini, è successo a Ancelotti, va bene così, fa parte della logica di questo mondo, della vita. Cioè, io sono felice di quello che ho fatto. Sono contento per Seedorf che gli hanno dato questa opportunità. Probabilmente lui se l'è guadagnata, essendo stato un grande giocatore, essendo i dirigenti hanno pensato, il presidente, che potesse avere già l'esperienza e lo spessore per guidare un gruppo così importante. Mario, c'è sempre un po', io non dico di invidia, però spesso quando gli allenatori che hanno fatto la gavetta parlano di questi fenomeni che sbucano e vanno direttamente su queste panchine, c'è sempre un po' un senso di rivalsa. Beh, sicuramente tra le righe si legge questo dalle dichiarazioni di Mazzarri. Devo dire che insomma il mondo è cambiato, la parte mediatica dell'allenatore è importantissima, e quindi è normale che il capo dello staff tecnico possa essere un grande giocatore già il giorno dopo che ha smesso di giocare. È chiaro che poi l'abilità di questo grande giocatore è quello di avere poi uno staff di professionisti che invece ha un'esperienza molto grossa, che poi quindi può aiutarlo a portare avanti le cose, perché la cosa più difficile è avere la personalità per gestire la situazione, e questo magari anche la gavetta non aiuta. Provando ad andare un po' in là, secondo te ad esempio Aldo, Pippo Inzaghi dopo un minimo di gavetta con le giovanili potrebbe essere il profilo giusto per la prossima stagione per il Milan? Beh, devo dire o fa bene il Milan a fare tesoro degli aspetti negativi di questa esperienza? Beh, dovesse essere Inzaghi, ha già una sponda importante in Galliani, e quindi Galliani ha enorme fiducia in Inzaghi e sarà il suo riferimento eventualmente dovesse essere lui l'allenatore. Io penso ho fatto il calciatore, non ho fatto l'allenatore, e credo che un minimo di risentimento ci possa essere, lo comprendo sotto il profilo umano, però la vita è fatta così, ci sono allenatori che iniziano subito perché hanno avuto un ascendente importante, hanno avuto una relazione con il proprietario del club, e quindi penso sia anche giusto, se un proprietario reputa che abbia quelle caratteristiche, un ex giocatore appena ha smesso può dargli la panchina. Poi un presidente paga, quindi può fare quello che vuole della sua panchina. Ma poi non c'è niente, scusando, di più sincero del calcio, perché poi dopo si vede, Mancini è stato messo lì il giorno dopo che ha smesso, ma si è dimostrato un grande allenatore, la sua carriera l'ha dimostrato, poi qualcun altro si vedrà, magari si brucia. Qualcun altro, vediamo ad esempio il caso di Gattuso, che in tanti dicono momento, essere un potenziale buon allenatore, aveva scelto anche una piazza difficile per partire. Aldo, per chiudere, dammi un pronostico sul derby, ma soprattutto che cosa ti aspetti? Mi interessa, ripeto, l'atteggiamento dell'Inter, cioè parte per i due risultati su tre, secondo te Mazzarri, o farebbe bene a tenere in mente che gli conviene vincerla? Innanzitutto spero sia un derby corretto in campo e fuori, non ci siano problematiche che abbiamo visto ieri a Roma, e quindi spero innanzitutto questo. Poi io credo Mazzarri partirà in maniera prudente, ha vinto il derby scorso giocando un primo tempo forse fra i più brutti della sua gestione, e poi con gli ultimi 25 minuti finali fatti abbastanza bene è riuscito a portare a casa i tre punti, quindi io penso partirà abbastanza abbottonato. Grazie Aldo. Ciao a tutti. Ciao Aldo. Grazie ad Aldo Serena. 800 24 00 24, 3 minuti alla fine di Levante Atletico Madrid, 2-0 per il Levante. Lorenzo da Firenze. Lorenzo. Sì, buonasera. Buonasera, prego. Su ieri sera, che io ero a Roma alla partita, ero vicino alla curva sud con i tifosi della Fiorentina. Secondo me è stato commesso un grave errore ieri sera, nel senso che siamo rimasti 40 minuti senza sapere nessun annuncio dello speaker. Non si sapeva assolutamente quello che stava succedendo, solo chi era riuscito a fare una telefonata fuori aveva saputo di questo incidente, e sostanzialmente la questura parlava solo con i rappresentanti dei due ultras, diciamo. In questo modo si legittima, cioè la questura legittima i rappresentanti estremisti, invece di coinvolgere i tifosi in generale, che forse avrebbero reagito in modo comprensibile. Cioè quando io parlavo con gli altri tifosi della Fiorentina dicevo: guardate, forse c'è il rischio di un morto. Beh, insomma, la gente capiva, e quando poi c'è raggiunto l'accordo di non mostrare le bandiere e via dicendo, poi quelli che hanno buttato il lacrimogeni o quei fumeggianti, gli altri gli urlavano scemo scemo. Cioè bisogna che la questura coinvolga non solo i rappresentanti, anche se secondo me ieri chiunque avesse uno smartphone allo stadio aveva capito, sapeva benissimo, perché era da più di un'ora che su Twitter, su Facebook, su qualunque piattaforma social disponibile, su un telefonino per tutti, secondo me per 50.000 dei 60.000 ieri sera all'Olimpico veniva descritto in maniera anche sin troppo chiara che cosa era successo, anche al di là della versione ufficiale che la questura accreditava in quel momento. Grazie Lorenzo. Comunque Mauro da Roma. Mauro. Sì, salve, buonasera. Prego. Torno sull'argomento. Io quello che chiedo, che vi prego a voi della trasmissione, ai giornalisti, però di cercare sempre di guardare quelle che sono le notizie vere, appurate, che ha trasmesso la questura, per cui non capisco come no, si continua a parlare di... Però Mauro, posso, ho anche un po' di esperienza, diciamo di cronaca e cronaca nera, quella della questura è certamente la versione più importante, ma è una versione, lo dimostra che cosa è successo ieri. Ieri a lungo la questura ha raccontato una versione che evidentemente insomma è stata poi smentita dai fatti, ma che serviva in quel momento per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico, quindi si fa bene a raccontare quello che racconta la questura, per carità, a maggior ragione il ministro Alfano, e lo abbiamo fatto sentire più volte, però poi bisogna anche provare a fare dei ragionamenti. Comunque prego Mauro. No, dicevo che la cosa che un po' mi disturba è il fatto che voi continuate a parlare di agguato, quando si è appurato che era una persona, un pazzo che stava lì, è stato provocato quello che volete, stava lì, la follia. Stava lì. Però armato di lacrimogeni, di fumogeni da lanciare in mezzo. Io non riesco a capire come lo si può definire, chiedo aiuto all'avvocato Ielpo, agguato di uno, ma voglio dire uno che sta lì ad aspettare che passi i pullman e la tifoseria avversaria con cui ha dei conti in sospeso. Armato di fumogeni per io non lo so come lo so, definiamo, c'è poco da dire. Non certo, vogliamo chiamarlo agguato, o uno, dieci, ma a Roma purtroppo sulla strada che va da Ponte Milvio allo stadio, dal Ponte Duca d'Aosta, no, quell'altro ponte non mi ricordo più, viadotto di dopo Corso Francia, non mi ricordo più come si chiama, ne succedono questi agguati diuturnamente. Qui adesso è stato un agguato più grave, clamoroso, però c'è sempre, c'è ogni partita praticamente. Poi, se non vi piace il termine agguato, noi ne usiamo anche un altro, però insomma è qualcosa strettamente legato all'evento sportivo. Tutti convocati. Michele da Caserta, Michele. Prego Michele. Buonasera. Dica. Allora, io ieri ero... Sì, però ti sentiamo male, ti recuperiamo subito. Giuseppe da Napoli, Giuseppe. Buonasera, sono prego. Fosso del Napoli, sì. Primis. Volevo stigmatizzare assolutamente, perché le persone per bene non si riconoscono in quelle situazioni che abbiamo visto ieri e purtroppo si sono viste anche all'estero, presumo, e sia il comportamento di quei delinquenti che non si riesce a capire come ancora oggi riescano ad entrare allo stadio con i loro fumogeni, e soprattutto lo schifo e la vergogna di vedere uomini delle istituzioni dello Stato trattare in diretta con questi che sono dei delinquenti. Volevo esprimermi la mia vergogna, il mio completo dissociarmi come cittadino napoletano e come italiano da quello schifo, mi scusi il termine, che ieri sera ancora una volta ha invaso le televisioni di tutti quanti, sono delle persone per bene, e di tutti coloro che portano i figli allo stadio e che non sicuramente non lo faranno più. Sì, che faticano a riconoscersi in quello che hanno visto. Assolutamente. Ripeto, intanto sta succedendo di tutto, scusa Giuseppe, anche in Levante Atletico Madrid, gara praticamente finita, ma c'è stato qualche problema di ordine pubblico, si è accesa una mischia. Fra qualche minuto andiamo in Spagna da Filippo Maria Ricci per farci raccontare tutto. Grazie, proviamo di nuovo Michele da Caserta. Michele. Sì, eccoci. Buonasera. Prego. Allora, io volevo dare una versione leggermente differente dell'accaduto, perché che io sappia c'era un appuntamento ben preciso tra tifosi ultra romanisti e capi ultra della tifoseria del Napoli a Dassele, in quella zona di Roma. Al momento in cui sono venuti a contatto le due tifoserie, diciamo, si è aggregata questa persona che è uscita da un vivaio, e diciamo questo povero ragazzo si è trovato lì per scambio. Michele, noi raccogliamo, c'è oggi anche chi ha scritto che c'erano addirittura esponenti di altre tifoserie, Verona, Genoa, Catania, anche questo in realtà è un copione già letto, già visto, perché è successo anche 20 anni fa nel famoso Brescia-Roma, dove c'era anche sempre quel Gastone di cui oggi si è tanto scritto e tanto parlato, ma comunque basta attendere, le indagini ci chiariranno tutto. Andiamo in Spagna. Olé! Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid, fine del ciolismo, cioè fine di quel sogno di vincere la Liga dell'Atletico? Beh, ancora no, dai. No, però, insomma... Con due vittorie vincono lo stesso, sì, eh? Peccato che l'ultima è a Barcellona, comincia a essere un sì, po' più complicato. Però il Barcellona non è il Barcellona, e attenzione, il Barcellona cosa fa? Vince per dare lo scudetto al Madrid, eh? Mi fai il dietrologo. Queste sono robe italiane, non spagnole. Esatto, sono cose che noi qua teoricamente non si fanno. Adesso vediamo cosa succede, perché insomma la situazione per il Barcellona è particolare. Per come è andato tutto quest'anno, ci manca solo che il tifoso del Barça veda la sua squadra vincere quando non conta più niente e regalare lo scudetto al Madrid. Insomma, per il Barcellona è una situazione particolare. Però attenzione, perché in caso di arrivo delle tre squadre a pari punti, il Barcellona vince il titolo. Per cui adesso è tutto molto complicato. Tanto deve giocare stasera il Madrid, poi il Madrid rigioca mercoledì una partita da recuperare, e dopo c'è un'altra giornata domenica prossima, e poi c'è il famoso Barcellona Atletico Madrid. Detto questo, abbiamo seguito la partita oggi, Levante 2 Atletico Madrid 0, lo ricordo. Mi sembra che le fatiche di Coppa si siano fatte sentire. Sì, qua ci sono anche altre malelingue che dicono che Levante avesse un discreto premio a vincere per questa partita, ed effettivamente per l'impegno mostrato, visto che non aveva assolutamente nulla, diciamo, da chiedere a questa partita, il sospetto resterà. Insomma, ci sono anche delle dichiarazioni un po' strane del presidente del sindacato a favore dei premi a vincere, perché non li considera antisportivi. Insomma, ci sarà polemica. È chiaro che le fatiche di Coppa pesano, infatti vediamo adesso tra poche ore gioca Real Madrid in casa col Valencia, vediamo come va a finire. Però insomma, oggi sì, ha avuto anche tanta sfortuna l'Atletico, questo Keylor Navas che ho intervistato l'altro giorno e che troveremo ai mondiali, continua a essere il portiere di moda della Liga, oggi ha fatto 2-3 parate spettacolari e poi un autogol sfortunatissimo, un sì, palo, anche se complessivamente è stato un Atletico abbastanza in difficoltà, anche fisicamente non mi è sembrata, insomma, la miglior partita dell'ultimo mese dell'Atletico, però 15 tiri, insomma, non è così, diciamo, non così male, però è chiaro che ha sofferto. L'autogol gli ha anche un po' tagliato le gambe, insomma, vediamo come va a finire. È ovvio che adesso c'è una finale di Champions, insomma, un minimo di, si poteva pensare a un calo di tensione. Adesso vediamo, restano comunque padroni del loro destino. E le polemiche per il premio a vincere, Mario Ielpo, almeno noi queste ce le risparmiamo. Ma non so se sia legale in Spagna. È legale in Spagna? No, assolutamente illegale. Perché ci sono campionati dove è legale, no? Mi sembra di ricordare. Comunque, insomma, se uno non riesce, non è così bravo per vincere, non è che un premio lo fa diventare improvvisamente. Sì, secondo me Atletico Madrid, e ne ha tutte le ragioni, stanchino, i segnali c'erano già stati al di là delle straordinarie prestazioni in Coppa. In campionato era da qualche domenica che arrivavano vittorie stentate senza prendere gol, oggi gol sono arrivati ed è arrivata anche la sconfitta. Grazie Filippo. Grazie, ciao. Grazie Filippo Maria Ricci. Abbiamo finito 20:45, il derby Milan-Inter, pronostico secco Mario Ielpo? 1-1. Ringrazio Giorgio De Luca, che è l'autore di questa puntata. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato e Robby Scaltretti, che si sono alternati in regia. Un saluto da Giovanni Capuano. Io sono qui anche domani dalle 14 alle 16. Pierluigi Pardo, tutti convocati.